24 di Giovanni Minoli. When the days are cold in the car... Sulla complicata scacchiera della Siria muove le sue pedine la potente comunità alawita, da sempre schierata al fianco del presidente siriano. Si concentrano forze e interessi diversi, spesso contrastanti. La Russia appoggia l'avanzata dell'esercito di Damasco, Washington continua a sostenere nella lotta anti-ISIS le milizie curde. La desolazione di ciò che resta di Aleppo in Siria è, se possibile, ancora più devastante se raccontata con lo sguardo dei bambini, vittime inermi di 6 anni di guerra. Sanguinoso attentato stamattina a Damasco, in Siria, almeno 46 morti, oltre 100 i feriti, le vittime erano quasi tutti pellegrini iracheni. Il messaggio è chiaro, la Siria deve voltare pagina e per farlo la strada che le famiglie alawite indicano è quella di una pacificazione attraverso la costruzione di uno Stato laico e democratico. Buongiorno, bentornati a Mix 24. Oggi torniamo a parlare di Medio Oriente, in particolare cercheremo di capire quali sono le radici profonde, culturali, alla base del conflitto siriano. Alberto Negri, autore del libro Il musulmano errante. Ecco, Alberto, so che questo libro ti è costato 30 anni di ricerche e una storia sotterranea e sconosciuta al grande pubblico. Ma chi sono gli alawiti e perché sono così importante sapere adesso chi sono? È importante saperlo, Giovanni, perché sono al potere in Siria, cioè sono l'unica minoranza musulmana rimasta al potere nel mondo arabo, e una vicenda la loro durata 1000 anni, una vicenda sconosciuta, segreta, perché per questi secoli erano rimasti praticamente ai margini della storia del Medio Oriente, erano vissuti nascosti, dissimulando le loro vere credenze, che sono considerate eretiche dagli altri musulmani. Ecco, infatti gli alawiti nella storia dell'Islam sono considerati esoterici quasi rispetto agli altri. E che cosa però li rende così diversi e cosa li rende ancora speciali, a parte il fatto che sono al governo in Siria? Beh, direi soprattutto la loro teologia. Loro credono che Ali, che è considerato un califfo sia dai musulmani sciiti che da quelli sunniti, sia in realtà la reincarnazione di Dio in terra. Poi credono alla trasmigrazione delle anime, cioè dopo la morte l'anima di un alawita si rincarnerà in un altro essere umano. Ma non solo, non praticano alcuna, questo nella fede alawita tradizionale, dei pilastri dell'Islam, dal Ramadan, il digiuno, e neppure pregano in moschea. Capite bene quale sia la differenza. Beh, certo. Con gli altri. Ecco, ma al centro del tuo libro c'è un personaggio, Soleiman Effendi. Chi era? Beh, Soleiman Effendi fu colui che per primo nel 1863 a Beirut rivelò i segreti degli alawiti, cioè pubblicò un libro rivelando questi segreti, una figura straordinariamente complessa, perché lui era nato alawita, era stato iniziato come dagli sceicchi alawiti e poi si era convertito prima all'Islam sunnita, poi all'ebraismo, poi infine al cristianesimo cattolico e ancora a quello presbiteriano, per poi diventare ortodosso e tornare alawita nel tragico finale della sua vita. Ecco, improvvisamente gli alawiti, da gruppo al margine, come hai detto, diventano il centro di potere con l'ascesa di al-Assad. Com'è stata questa ascesa? Beh, è stata assolutamente contrastata, perché dopo il colpo di Stato Battista nel 66, nel 71 Assad diventa presidente con una costituzione che non prevedeva neppure che il presidente della Repubblica Siriana fosse musulmano. Perché? Perché gli alawiti temevano appunto che gli altri li accusassero di essere dei miscredenti e dei non musulmani. Senti, il tuo libro è una cavalcata nella politica medio orientale, affonda nell'unico terreno che alla fine aiuta a capire che cosa sta succedendo, e cioè nella cultura. Per capire Jihad, la lotta armata in Medio Oriente, bisogna imparare una storia di eretici e di miscredenti. Dunque, che storia è quella di questa, Alberto? Beh, è una storia assai complicata, ma che ci dice una cosa. che è assolutamente importante. L'Islam non è unico e l'Islam non può essere certamente rappresentato dagli integralisti o dei fondamentalisti, che sono una piccola percentuale presa in tutto quello che è l'universo di 1.300.000.000 di musulmani nel mondo, e che in realtà l'Islam è formato da tante correnti che in qualche modo ne complicano ma ne arricchiscono la molteplicità. E quindi le radici del conflitto siriano stanno in questa pluralità di soggetti? Non c'è dubbio, ma anche in quelle alleanze politiche e geopolitiche che ci hanno portato fino ad oggi, perché gli alawiti siriani, per essere legittimati, si sono alleati con l'Iran sciita, che in qualche modo gli ha dato una sorta di protezione e di legittimità, e questa alleanza è quella fondamentale che ha costituito l'asse della mezzaluna sciita contro l'asse della mezzaluna sunnita, il cuore del conflitto siriano. Che poi, se non si capisce questo, non si capisce cosa sta capitando e perché. Esattamente, e anche quello che sta accadendo in queste ore, perché poi queste vicende sono assolutamente contraddittorie. Erdogan, per esempio, che è in prima pagina oggi su tutti i giornali, era colui che aveva sostenuto l'opposizione contro Assad, ma quando ha visto la mala parata e la guerra persa ha dovuto allearsi con la Russia e con l'Iran, e oggi proprio ad Astana cominciano altri tornati di negoziati dove Russia, Iran e Turchia si siederanno allo stesso tavolo. Questo praticamente a sei anni esatti quasi dall'inizio della rivolta siriana contro gli Assad. Ecco, ma perché gli americani non hanno capito che la loro strategia era assolutamente perdente? Gli americani, con la signora Clinton in particolare, durante la presidenza di Obama, hanno cercato in qualche modo di leading from behind, di guidare da dietro questa rivolta siriana, ma con una complicazione enorme, perché questo, in questo modo si trattava anche di dare, come dire, il via libera a quei jihadisti che poi si sono scontrati con il regime siriano e hanno praticamente distrutto la Siria. Ecco, senti, Alberto, ma che cosa ha capito Putin invece? E che è riuscito poi in definitiva, l'hai detto anche tu prima, a imporsi in tutto il quadro geopolitico del Medio Oriente. Che cosa ha capito? La Russia e l'Iran in particolare hanno sfruttato gli errori del Medio Oriente, l'Afghanistan, ma poi soprattutto l'Iraq, no? Cioè in qualche modo sia l'Iran che la Russia hanno in qualche modo si sono infilati in quelli che sono stati gli errori degli occidentali e dei loro alleati. Forse più che Putin, il vero vincitore di questo conflitto per ora è quell'Iran che in qualche modo ha questo asse che parte da Teheran, attraversa a Baghdad, governo filo sciita, passa per Damasco e arriva fino alle sponde del Mediterraneo con gli Hezbollah libanesi. E quella Russia ha voluto in qualche modo entrare da protagonista, perché infatti oggi in Libia, che poi è come dire, il paese che ci riguarda più da vicino, in realtà oggi bisogna trattare coi russi. Noi sembra che abbiamo in qualche modo appoggiato il cavallo perdente col governo sponsorizzato dall'ONU, mentre è il generale che comanda, no? Sì, diciamo che nella Libia di oggi c'è, come dire, una gran voglia di uomo forte dopo, esatto, la caduta di Gheddafi, no? E l'abbiamo lasciato la Libia al suo destino dopo i bombardamenti del 2011, e oggi purtroppo abbiamo a che fare con una Libia quasi somalizzata, cioè praticamente sbranata dalle fazioni. E quindi la soluzione lì è una soluzione che non si intravede? No, c'è una soluzione. La soluzione sarebbe quella, in qualche modo, di cercare di creare delle zone, in qualche modo, non soltanto in cui salvare i profughi, ma delle zone di ricivilizzazione della Libia in cui tornare ad avere una vita normale. Ma questa forse è l'unica soluzione, ma è una soluzione certamente lunga e complicata. Ma c'è un'analogia tra la Libia nella quale ha preso il potere, prese il potere Gheddafi, e questa Libia di oggi? Beh, direi che l'analogia è sempre il filo conduttore, sono gli appetiti delle potenze esterne. Noi vediamo che sono coinvolti l'Egitto, la Russia, gli Stati Uniti, noi stessi, che per noi la Libia è la sponda fondamentale del, certo, Mediterraneo, no? E soprattutto poi quel petrolio che alla fine costituisce il vero bottino libico. Ecco, senti, ma la ritirata degli americani, dunque il presidente Trump, secondo te può ricostruire una politica estera americana pragmatica, realista? Oppure dopo i danni fatti dalla Clinton soprattutto, questo è molto difficile. Ma io credo che ci sia questa opportunità, e la Siria sia proprio una di queste chance, proprio la battaglia di Raqqa, dove intorno a Raqqa ci sono quasi 7 eserciti diversi, no? Un po' come la battaglia di Berlino del 45. Ecco, questo può essere il primo test per provare a vedere se da un mondo, come dire, bipolare o unipolare si passa a un mondo multipolare con esiti positivi. E quindi, Alberto, l'Iran, come dicevi tu, insieme alla Russia è diventato il player decisivo e anche in questa storia degli alawiti è importante, no? Non c'è dubbio, loro si hanno appoggiato Assad al potere, gli iraniani vorrebbero che restasse, forse i russi sarebbero disponibili a una transizione, come dire, ordinata di questo regime, ma Mosca ormai ha messo quelle basi militari sulle sponde del Mediterraneo e certamente non ci vuole rinunciare. Ecco Alberto, nelle conclusioni del tuo libro tu parli del nemico perfetto. E chi è il nemico perfetto? Proprio Assad, esponente di una minoranza, come dicevo prima, considerata un miscredente e in qualche modo invisa alle potenze sunnite, soprattutto alla Turchia e all'Arabia Saudita, che forse ambivano di fare a pezzi quella Siria. Ricordiamoci che Erdogan, prima di rialleassi con la Russia e con l'Iran, aveva l'ambizione di portarsi via Mosul in Iraq e Aleppo in Siria. Certo. Samir Kassir, che è un giornalista, attivista politico libanese, ucciso nel 2005, ha descritto in un libro stampato in Italia da Einaudi l'infelicità araba. Tu nel tuo libro l'hai raccontata in presa diretta. Che cos'è questa infelicità? Ma io credo che sia qualche cosa che è derivato anche da tutta la presenza coloniale occidentale e poi da questi regimi postcoloniali dittatoriali che non hanno lasciato in realtà che questi paesi avessero uno sviluppo autonomo e importante. Perché il libro sugli alawiti, sul musulmano errante ha un senso? Perché racconta una storia che non viene mai raccontata nei libri di storia arabi. Ma perché è una parte di noi, quello che tu racconti, che in qualche modo abbiamo rimosso colpevolmente? L'abbiamo rimosso, ma anche strumentalizzato, perché i francesi strumentalizzarono gli alawiti, ne fecero addirittura uno Stato negli anni 20 e 30, in quell'ottica di divid et impera imperiale, che è sempre quello che ha costituito l'Occidente. Ma adesso bisogna riscrivere una storia diversa, una storia in cui tutte le minoranze del Medio Oriente abbiano un senso. Ricordiamoci gli yesidi che sono stati massacrati dall'ISIS, gli stessi cristiani che stanno scappando dal Medio Oriente e tante tante altre componenti che ci dicono che il mondo musulmano non è quel monolite che è stato descritto. Certo, senti Alberto, Papa Francesco ha visto la terza guerra mondiale a pezzi, ne parla in continuazione. È importante il suo messaggio per il musulmano errante che hai raccontato nel tuo libro oppure no? Io direi che è estremamente importante, perché questo Papa in questo momento storico ha preso atto che in qualche modo bisogna arrivare a un dialogo con l'Islam, e arrivare a un dialogo con l'Islam che non sia caratterizzato da quella che è stata, come dire, l'espressione di volontà di potenza che ha considerato l'Occidente in questi anni, cioè di fare dei paesi del mondo musulmano dei target militari e magari anche economici. Bisogna uscire da questa logica, perché altrimenti noi che viviamo qui in mezzo a questo Mediterraneo non ne usciamo fuori. Grazie Alberto, ricordo il titolo del tuo libro, Il musulmano errante, edito da Rosenberg e Sellier, 800 24 00 24, per gli sms 349 238 6666, per scusate Pietrangelo, nel libro di Alberto Negri c'è un capitolo che riguarda l'islamizzazione della Persia. Che cos'è oggi l'islam della Persia, cioè dell'Iran contemporaneo? L'islam nella storia, quando incontra i popoli e le loro identità, ha un ruolo quasi da lievito, ma paradossalmente non fa che rafforzare l'identità di questi popoli, e così è stato con la Persia, nel senso che in Iran l'Islam, attraverso tutte le sue fasi, compresa l'ultima, quella della rivoluzione di Khomeini, inevitabilmente non è riuscita a cancellare la sua vera origine, la sua vera storia, tant'è che nelle case, nelle abitazioni degli iraniani oggi i calendari sono triplici, cioè c'è il datario occidentale, c'è il datario musulmano e c'è il datario zoroastriano. È un po' come se noi qui in Italia avessimo ancora la datazione secondo i nostri padri, quelli della Paganitas romana o greco-romana. È un'identità forte che ha avuto modo di svilupparsi proprio grazie all'incontro con l'Islam. Mario, questo libro di Negri è una testimonianza diretta che evoca qualcosa di nostro, come ha detto Alberto. Sì, sì, un'operazione eroica ha fatto Alberto Negri, perché ha scritto un libro, secondo me, molto importante, appunto per capire quello che c'è oggi, ma ripercorrendo mille anni di storia. Secondo me, per capire le atmosfere, vale la pena sentire della musica, però. Sentiamo non la parlerò musica. Niente, sentiamola. La musica? أو تتسل بسيرتي كتير وش هسمحلك تبقى كرامتي وسيلة رخيصة للتعبير. Fai la tua bolla, Mario? Facciamo anche la bolla, ma cominciamo con questa musica o vogliamo cambiare musica? Come questi erano tu? Gli Orange Blossom, gli Assidi. Cambiamo musica. Wow! Che canto! Questi invece sono i Talking Heads. Va bene, e allora Giovanni, ci sono un sacco di cose. La Turchia l'abbiamo evocata e lo scontro con l'Olanda pure. Domani c'è un vertice importantissimo. Angela Merkel incontra Donald Trump alla Casa Bianca e sapete tutti quanto i destini dell'Europa siano legati a quelli della Germania fondamentalmente, e purtroppo i destini globali sono invece legati a doppia mandata a quelli degli Stati Uniti e della nuova amministrazione americana che è a Washington. Ora, le dichiarazioni di Trump su Merkel sono state durissime nei mesi scorsi, ha detto che è una rovina per la Germania, poi naturalmente ha detto che è anche un grande leader. L'euro per Washington è un marco travestito, forse lo hanno tutti torti. Il surplus di bilancio di Berlino è una cosa che per l'America è un problema. Sarà un bel incontro, insomma. Deficit commerciale è sul tavolo. Trump ha detto che ci sono troppe Mercedes a New York, la Merkel ha risposto che ci sono troppi iPhone a Monaco. Il clima è perfetto per fare la pace, perché la pace. Penso che alla fine un pragmatico come Trump e una sminuzzatrice di diplomazia come Angela Merkel troveranno, diciamo così, un terreno comune per almeno 5 minuti. Poi uno tornato a Berlino, l'altro a Washington, come vogliono. Esatto. Salamino. Ritorno al futuro, nostalgia dell'avvenire, la parola d'ordine è una sola. Vale. Bambole, non c'è una lira. Se potessi avere 1.000 lire al mese, senza esagerare. Bambole, non c'è più la lira, ma tornerà. Col tornare di Silvio Berlusconi sulla scena, tornerà anche la lira. Qui comincia l'avventura del signor Bonaventura. Qui comincia l'avventura del signor Bonaventura, che è il cavaliere, lancia la proposta della nuova lira e quindi il caffè costerà 100 lire, non 2000, quanto ne costa oggi. Il biglietto della metropolitana 150 lire, non 3000, quanto ne costa oggi. Un pranzetto in trattoria 15.000 lire, vino compreso, e non 30.000, 40.000, 50.000, quanto ne costa oggi, per non dire del premio. Ogni Bonaventura avrà il suo giusto premio d'un milione. Il tuo bolide in azione, del furfante sul groppone, mi riempì di commozione e si merita un milione. Torna Berlusconi e tornano i milioni. Il programma e basta risolverà col ritorno della lira due questioni: tutelare la sovranità della nazione e tirarsi dietro i sovranisti, ovvero Matteo Salvini e Giorgia Meloni. La proposta segue ad uno studio accurato di un gruppo di economisti. E insomma, arriveranno le lirette, caro Giovanni, con sopra stampati i volti nobili di Verdi, di Michelangelo, di Maria De Filippi, di Barbara D'Urso, di Paolo Bonolis, di Bruno Vespa e anche Gianni Letta. Va da sé, circoleranno in tandem con l'euro. Dopodiché Berlusconi, che una ne fa e cento ne pensa, ha lanciato 8 rami. Non sono bastoni, non sono manganelli, bensì sono 8 braccia d'albero, che è quello della libertà. E siccome per fare un albero ci vuole un fiore, il suo fiore chi è? Chi è? È Anna Grazia Calabria, brava, bella, leader dei giovani di Forza Italia. Per fare un tavolo ci vuole il legno. E con le bambole arriveranno le lire. E va bene, dopo la pubblicità noi racconteremo la storia di Marco Biagi, morto 15 anni fa, ucciso dalle Brigate Rosse, una morte che lascia una scia di critiche. Più volte Biagi aveva ricevuto denunce, minacce, ma la scorta gli era prima stata assegnata, gli viene revocata, una morte insomma annunciata. Per chiudere, Gloria Guerrera, che cosa ci propone oggi? Oggi una canzone per chi, dopo lunghe sessioni passate a suonare per altri, viene finalmente invitato a ballare e ha un gran talento. E allora Mambo, Vinicio Capossela. Eccoci qua, noi suoniamo e voi state di là, noi sudiamo e voi bevete già, noi soffiamo e voi ridete, ma anche lei quella sera rideva e sembrava sincera, aveva tacchi, spilli, orecchie, anelli, amici e tricchi tracchi. Mi guardava sicura e io a vedermi mettevo paura, ma lei mi dice in un orecchio: vieni, andiamo giù a ballare. Allora Mambo, Mambo sudando, attento al tempo, se non mi inciampo, si struscia coscia contro coscia, striscia che pari una biscia, bacia il collo con audacia, struscia lascia dove non cuoce il sole. Barcollando usciamo un taxi e poi a casa mia la notte breve, lei dice stanotte non possiamo, ma domani ti regalo la felicità che non si può cambiare, che batte nella testa e non ti fa soffrire, la coscia che ti do serve ad amare, e il piede contro il tuo lo uso per ballare. Allora Mambo, Mambo sudando, attento al tempo, se non mi inciampo, struscia coscia contro coscia, striscia che pari una biscia, bacia il collo con audacia, struscia lascia dove non cuoce il sole. Allora Mambo, Mambo sbariando, io sto sudando, spingendo il gambo.